con l'autorizzazione dell'Authority per l'energia, delle tariffe estremamente convenienti, e quindi da questo punto di vista si apre completamente un nuovo scenario. Le autorità politiche locali e nazionali hanno cominciato a guardare al progetto con interesse e ora si pensa a una normativa nazionale, come ci racconta l'onorevole Ghiglia, PDL. Nello stesso tavolo ci sono anche deputati di sinistra, come l'onorevole Lulli, in quota PD. L'Italia è come sempre la prima a partire in quanto a innovazione, ma poi, tra leggi, mancati finanziamenti e ostacoli vari, qualcosa si inceppa. Ne sa qualcosa Gaetano Di Gioia, considerato l'Enzo Ferrari delle auto elettriche. Dal 1987, con la sua Microvet, sviluppa e costruisce mezzi elettrici ed è il vero leader del settore. Oggi realizza più di 1000 auto elettriche l'anno. In passato, in Italia, rispetto agli altri stati europei, c'era una situazione abbastanza privilegiata per l'auto elettrica. Quindi infatti la nostra azienda è cresciuta e sopravvissuta grazie al fatto che in Italia c'è una legge del 95 che prevedeva praticamente contributi a tutti gli enti pubblici o alle aziende private che svolgevano servizi di pubblica utilità per il ricambio della flotta, sostituendo veicoli tradizionali con veicoli elettrici. Questo ha permesso che la Microvet avesse in Italia un mercato abbastanza notevole, cosa che invece era meno eclatante negli altri paesi europei. Le do un dato: nel 2007 praticamente ancora l'80% del nostro fatturato era praticamente fatto in Italia e il 20% all'estero. Ecco, oggi invece la situazione si è un po' ribaltata. C'è molta più attenzione nei confronti dei veicoli elettrici e risorse disponibili negli altri paesi europei rispetto all'Italia. La legge di cui le parlavo purtroppo non ha più fondi e difficilmente verrà rifinanziata. Oggi l'80% della nostra produzione va all'estero e il 20% va in Italia. Italia in controluce. E ora andiamo a conoscere un personaggio. Marco Rovelli, musicista, compositore e anche scrittore. Ha percorso chilometri e chilometri nel nostro paese per raccontare quelli che ha chiamato nel titolo di un libro Servi. Chi sono i servi in Italia oggi? I servi di cui parlo, che ho scritto, sono i servi clandestini, questi famosi uomini neri che servono a innescare tutto il circolo, il ciclo delle nostre paure, questo splendido materiale elettorale, insomma, che è fatto apposta in realtà per non vedere la loro carne, le loro ossa, il loro sudore, i loro gesti di schiavi di un sistema economico che ci vede tutti quanti responsabili, insomma. Quindi ho cercato di raccontare le storie, le singole storie delle persone che lavorano. Sono andato nei campi, nelle metropoli, nei cantieri delle metropoli, nei borghi dei paesi, e quando dico campi intendo sia il nord che il sud, perché l'Italia è unitissima da questo punto di vista, insomma, a raccontare le singolarità, no? Quelle singolarità che sono occultate in questo grande stereotipo d'ombra che è il clandestino, che è appunto l'uomo nero, in cui tutte le storie si confondono e diventano solamente un fantasma, per recuperare quella verità singolare, no? Quindi disinnescare lo stereotipo, ahimè, così troppo reale ormai, innescato dai media: clandestino uguale criminale, per recuperare la verità che è clandestino uguale lavoratore. In questo tuo lavoro c'è una differenza tra immigrati che vivono nel nord o nel sud del paese? Alcune differenze specifiche c'è, parlando di macrodinamiche, ovviamente la determinazione di un dispositivo giuridico rende tutti quanti la stessa cosa. Chiaramente i braccianti che stanno nelle campagne del sud, che sono dentro quel circuito dei braccianti stagionali che fanno Puglia, Calabria, Sicilia, ovviamente sono il margine del margine, sono quelli che non riescono a intravedere neanche uno scarto da quel tipo di circuito in cui davvero sono imprigionati. Spesso sono quelli che sono arrivati direttamente dai barconi, che si sono fermati lì perché sono quelli che magari non hanno nemmeno una rete possibile. Di solito il migrante si muove su rete, si muove su nodi, va dove sa che c'è lavoro. Ecco, magari questi sono quelli proprio più privi di prospettive, ecco, quindi in effetti quello è il punto limite che possiamo andare a conoscere di questa realtà. Qual è la situazione peggiore che hai trovato? Appunto nelle campagne del sud, che non sono, appunto, dicevo, strutturalmente diverse le condizioni delle campagne del nord. o almeno ad alcune campagne del nord, però quello che fa la differenza è l'addensamento, come si è visto a Rosarno, insomma, e ovviamente Rosarno era una situazione di assoluto degrado, che, come scrivo nel libro, difficilmente anche uno scenografo hollywoodiano poteva immaginarsi le condizioni. Dopodiché il capitolo del libro dedicato a Rosarno, dove ero stato più di 3 anni fa, si chiamava Caccia al Nero, e quindi quello che poi è successo dopo era già scritto, non nel mio libro ma nelle cose, insomma. Il triangolo degli schiavi in Puglia? Il triangolo degli schiavi in Puglia, beh sì, mi sono state raccontate alcune testimonianze anche dai ragazzi polacchi, insomma, eccetera. In realtà la schiavitù in sé, secondo me, è un fatto estremamente limitato e singolare. A me preoccupa molto di più l'impersonalità del meccanismo servile, appunto, perché voglio dire che è quello che fa sì che se un piccolo agricoltore delle campagne di Cerignola non avesse a disposizione questa massa di servi, noi tutti quanti una scatoletta di conserva di pomodoro al supermercato, invece di 30-40 centesimi, la pagheremmo 3 volte di più. Questo, secondo me, è più violento, perché è più nascosto come violenza. È tutto per questa edizione di Italia in Controluce. Vi ricordo che potete commentare i nostri servizi, scriverci le vostre storie a controluce@radio24.it. Siamo anche su Facebook, Radio 24 Italia in Controluce. Buona giornata.